Più volte abbiamo potuto constatare come l'enfasi contraddistingua il fatto di aver imboccato, insomma, una brutta china. Se una prima volta, per riuscire convincenti, cominciamo col battere un pugno sul tavolo, la seconda volta dobbiamo come minimo rompere qualcosa. E la terza, beh, poi sarà un disastro. Così è nei gesti come nelle parole, ben inteso. Ciò che oggi è super, domani è mega, dopodomani è giga, ma attenzione, dopodomani ciò che è rimasto super è diventato, ahimè, un minus. Chi cede all'enfasi cade in una spirale perversa, deve sempre alzare la posta per ottenere un risultato che si fa sempre più difficile. Chi allora per vocazione e per cultura rischia di cedere all'enfasi è proprio colui che deve convincere, persuadere gli altri di qualcosa, per esempio di comprare. Grazie all'amico Guido Martinotti vengo in possesso di un'etichetta strappata ad una confezione in vendita in una nota e potente catena di supermercati. In questa etichetta ci sono ben due designazioni della merce in questione, più una caratterizzazione, diciamo, relativa allo stato di questa merce. Allora, le due designazioni non sono poi una novità, perché il mercato moderno offre sempre di meno merci isolate e designate nella loro isolatezza. Si trovano in vendita contorni già cotti e surgelati contenenti 5 o 6 verdure diverse, piatti precotti con vari ingredienti, paste e sughi, il cui nome non può essere ridotto all'elencazione dei loro componenti, ma diciamo che deve attingere a qualche luogo canonico dell'ideologia gastronomica. Allora vengono fuori nomi del tipo alla contadina, alla rustica, il gran contorno o cose di questo genere. Allora, la prima designazione sulla mia etichetta è dunque quella del nome collettivo della merce, Gran Poker di Insalate. Ora, con poker, oltre al gioco stesso, si designa anche quattro carte dello stesso tipo. Il Gran Poker, invece, nel gioco non esiste. L'analogia è già dunque zoppa. O fai poker o non fai poker, ma il Gran Poker nel gioco non lo fai. Semplicemente diciamo che è già zoppa l'analogia per amor di enfasi, allora, perché il Gran Poker è stato considerato più convincente del povero poker normale. Ma dalla seconda designazione arriva puntuale una seconda delusione. Vi sono elencate le insalate che dovrebbero formare il Gran Poker e ci si rende conto che, oltre alla chioggia, al cicorino e alla milanese, che spero che non sia un'insalata impanata e fritta, beh, ci sono le carote. Carote che, quantunque possano raggiungere lo stadio categoriale dell'insalata, insieme a che sia d'altro, come in insalata possono stare i cavolfiori e i millepiedi, carote che, dicevo, insalata in quanto tali ovviamente non sono. Dunque, diversamente dai tre moschettieri che erano quattro, le insalate non sono quattro ma sono tre. Più che un poker è un tris, più una scartina. Sotto la magniloquenza dei titoli, insomma, allignano realtà gastronomiche più misere. Vabbè. I guai però aumentano allorquando si dice che queste tre insalate e queste carote sono mondate e lavate in proporzione variabile. E qui l'affezionato cliente del supermercato si trova alle prese con quel caposaldo del pensiero teorico contemporaneo, il cosiddetto teorema di Gödel, che vorrebbe che nell'interno di un sistema logico compiuto e coerente sia sempre possibile enunciare proposizioni di cui risulta impossibile dimostrare se sono vere o false. Se la proporzione in cui questi elementi sono mondati e lavati è variabile, infatti, di nessuno di essi si potrà mai dire che è pulito. Le tre insalate e le carote sono sicuramente passate attraverso quattro modalità diverse di lavatura, come attraverso i quattro fiumi che escono dall'Eden secondo il Genesi 2.10 o attraverso i quattro gradi dello spirito crociano, ma che appena una di queste stazioni sia stata sufficiente a lavare non è detto. Il cliente farà dunque bene a lavarsele da sé, magari senza l'accortezza scientifica della proporzione variabile, ma con la presumibile certezza di non avvelenarsi. Anche la sottile e forse troppo sottile caratterizzazione tecnologica fa parte di quell'apparato retorico che con troppa enfasi condisce la struttura valoriale della merce prima dell'insalata. Curiosi sono invece i retroterra linguistici ed ideologici del mondare e del lavare. Se qualcuno pensasse alla pura ridondanza, sbaglierebbe. Mondare designa il togliere o il guasto o il superfluo, ma vi è implicito che quel guasto e quel superfluo facciano parte integrante dell'oggetto medesimo. Nel lavare è implicito che venga portato via qualcosa che, caratterizzato presto come sporco, all'oggetto si aggiunga. Tuttavia, mondare deriva poi dal latino mundus, che, guarda caso, designava proprio il pulito. La sopravvivenza di entrambi i termini, allora, il loro uso addirittura concomitante, è giustificata da quella distribuzione dei valori tutti attuali in grazia dei quali nei supermercati sono in vendita sempre più spesso soluzioni brachilogiche riduttive delle merci attribuite all'ordine naturale. Ci troviamo sempre di più carciofi privi di spine dalla testa mozza e dal culetto vispo, spinaci sfogliati e assetticizzati, minestroni preconfezionati allo stato di potenza aristotelica, cipolle o barbabietole infornate e plastificate, cuori di sedano apparsi tra zolle virtuali e pronti al pinzimonio. Nella civiltà dello spreco e delle scorciatoie, laddove le operazioni umane diminuiscono a favore degli investimenti simbolici, La parola perde la sua funzione designatoria e riacquista la sua funzione sociale soltanto nel rumore dell'enfasi.